com'è e come non è. Ci siamo arrivati anche quest'oggi, sono le 8. E questo è PBR. Pane, burro e rock and roll. Che è un acronimo di pane, burro e rock and roll. Sì. La tua colazione rock. Ho detto un acronimo, beh. Ogni giorno alla mattina ascolta. Non sembra, ma ho studiato, sì. Inizio della seconda ora di diretta, la squadra è sempre la stessa. C'è Roberto Fricantoni, c'è Spadino, c'è l'Ariele, c'è la redazione, ma soprattutto tutti voi via SMS al 335-100-7777. In particolare saluto Stefania da Milano, ma soprattutto la figlia Laura, 7 anni, conosce tutti gli stacchetti di pane, burro e rock and roll e adora Rogna e Frigo. Cara Stefania e cara Laura, io ci terrei avere un po' di bambini che cantano le nostre siglette, eh? Redazione, tenete i numeri che poi li ricontattiamo. Ho fatto un danno citando la canzone dei Pancreas. Ho decine di SMS che ricopiano che scrivono il testo della canzone Il vicino dei Pancreas. Oh, lo conosco benissimo io. Non c'è bisogno che lo riscrivete. Seconda ora dura da affrontare. Più che altro perché sto messo male io. Gna fo, arrivare fino alle 9. Scopriamolo insieme. Se ce la facciamo, intanto abbiamo anche il film che ci tiene compagnia questa settimana, Il grande Lebowski. Insomma, come al solito, ne combiniamo di cotte e di crude. Restate con noi, ve ne pentirete. È solo lo stress che ti fa parlare così. Adesso come adesso, noi abbiamo quella che secondo me è una serie di crimini senza vittime. Ma cazzo, c'è il dito! Lascialo stare quel cazzo di dito! Scusi, signore, le dispiacerebbe abbassare la voce? Ci sono delle famiglie in questo ristorante. La prego, cara. Per sua informazione, la Corte Suprema ha respinto il principio di diversificazione pregiudiziale. Non c'entra niente qui il primo emendamento. Signore, se non si calma, mi vedrò costretta a chiederle di andare via. Signora, ho visto i miei amici morire con la faccia nel fango, perché io lei ci godessimo questo ristorante per famiglia. Beh, me ne vado. Dai, Drogo, non andare via. Andiamo, questa cosa ci riguarda tutti. È la base della libertà. Io rimango a gustare il mio caffè. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Yeah. Grazie a Isacco Rizzi, stagista poco pagato ma sempre impagabile. E staccano vista, stagista, staccano vista. E grazie a Roberto Fricantoni arriviamo ai compleanni del giorno. L'Happy Birthday. Uè, uè, uè, tanti auguri. Era un gemito quello. Sì. Era il sì. riconoscimento del compleanno, esatto. L'immagine del bambino, che e poeta. Il 28 novembre infatti nacque. E a proposito di poeti, 1757, William Blake. Ah, grandissimo. Che ricorda di Blake? Ma ricordo delle illustrazioni straordinarie che facevano da contorno a poesie bellissime. Alla metà del Settecento Blake è stato un grande innovatore della poesia inglese. Tinte forti. Mi stupisce sempre di più, maestro. Ne sa una più del diavolo. Sì, era anche incisore, infatti. Sì. Dipingeva e incideva. Passiamo invece a un poeta nostrano. 1907 nasceva Alberto Moravia. Ah, grande scrittore italiano. Sì. Ecco, quale busta sceglie? Perché? La 1, no, la 2, cosa? La 3, perché mi deve dire, sì? Per 500 euro, sì, mi deve dire cosa? Qual era il vero nome di Alberto Moravia. Alberto Moravia si Via chiamava. Col tempo. Aveva un altro nome? Sì, aveva un altro nome. Non lo l'aiuto, so. Pinkerle. Sì? Pinkerle. Esatto, molto sì? bene. Non lo sapevo, oggi lo so. Grazie, grazie maestro. E proseguiamo, però torni, la prego in Fricantoni, perché abbiamo un'attrice. 1941, Laura Antonelli. La grandissima, la bravissima, evviva, un'evviva corale alla aveva grande iniziato Laura, da Freak, però. Sì, ma per fortuna mi sono impossessato della psiche di Freak. Ho paura che lei vuole ricordare qualche film. Sì, della grande Laura Antonelli, sì. Melizia. Malizia, malizia, grazie. Lo faccia giusto, la prego. Sesso scatto. No, sesso spesso matto. Scatto. No, no. Sesso masto e l'ultimo. Spesso e volentieri. No, sesso e volentieri. Questa volta ci poteva azzeccare oppure no. Lei ricorda l'Antonelli? Ah, bellissima donna che ha avuto molte e varie traversie. Allora, solidarietà alla grandissima Laura. Chiudo io con un celebre batterista rock. Fidanzata al grandissimo Bebel. Lei ricorda chi era Bebel per 500 euro? No. E non grande, me ne vergogno, tra l'altro. Il grande Belmondo, Belmondo. Belmondo, bravissimo, okay. Jean-Paul Belmondo. Chiudiamo con un batterista, Matt Cameron, nasceva nel 62, batterista statunitense dei Soundgarden e dei Pearl Jam. Pearl Jam, che possiamo tradurre alla lettera, aia. Marmellata di pirla, Pearl Jam, evviva. Oggi sono veramente molto spiritoso e mi abbatto da solo. Grazie, si abbatta. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving my excitations. Good vibrations. She's giving my excitations. Good vibrations. She's giving my excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations. Buone vibrazioni di Rock FM, ma nello specifico dei Beach Boys, Good Vibration. Occupiamoci di un nostro radioascoltatore. Questo per farvi capire che non è che vi abbandoniamo lì al vostro destino. Lo abbiamo sentito settimana scorsa. Lui è Mattia, ci ascolta in streaming da Rotterdam. Milano, chiamo a Rotterdam, a Rotterdam rispondi? Sì, ci sono, Ariel, buongiorno. Ciao a tutti. Tra l'altro ho scoperto in fuori onda, diciamolo Mattia, che sei uno dei cervelli che scappano dall'Italia, sei un ricercatore scappato a Rotterdam. Ritorna! Ah, ma torno, stai tranquillo. Infatti torna domani, Mattia. Esatto. È stato su 6 mesi, giusto? 6 mesi, sì. Ricordiamo il caso di Mattia, lui ha un problema con questa inglesotta vicina di casa. Sì. Carina, non gliel'ha data. Molto. Ma non è questo, il grosso problema? O sì? Un po' sì? No, questo non è il problema. Dai, Mattia, dai. Faccio il ricercatore, sono italiano, Guarda che ti abbiamo capito a te. No, il problema è che fai party house tutta la notte. Esatto, e rompe le scatole. Mattia diceva, parto giovedì, datemi una buona idea per fare degli scherzi. Io ho qui una dozzina di fogli con sopra degli sms, Mattia. Ti dico subito che è roba violenta. Va bene, io ho già preso carta e penna. Ecco, posso dirtelo, il primo, questo qui è abbastanza colorito. I radioascoltatori di Rock FM consigliano a Mattia come fare a farla pagare a questa vicina di casa, tra l'altro tenendo conto che domani espatria Mattia, quindi non la vede mai più. Allora, simuli un incendio, ti travesti da pompiere e gli devasti la casa. Fatto ciò, butti il travestimento e parti sul taxi per l'aeroporto. Questo è uno dei più tranquilli, Mattia. Ah, per fortuna. È uno dei più tranquilli. Hai presente i fiocchi quando muore una persona? Ecco, puoi scrivere il nome della vicina di casa e scrivergli fottiti musica dance. Questa. Non è obbligatorio ridere, Mattia, ma effettivamente sono un po' così. Si apre un filone di un centinaio di sms che immettono nello scherzo le feci, ma proprio ce n'è, ma di svariate anche, cioè il come si può dire, la materia principale è la cacca da utilizzare in svariati modi. Beh, il più classico citato da tantissimi è il sacchetto, questo vado a memoria. Sì. Sacchetto di carta, gliela metti dentro, cospargi di benzina, bruci, suoni e scappa. Istintivamente uno schiaccia per spegnere il fuoco. Oppure qua si parla di diluirla in un secchio con acqua e poi la versi nel cofano della macchina. Sai che bello quando accende il riscaldamento. Oppure con questo materiale eviterei di andare avanti, ma ce ne sono dozzine di versioni diverse, poi puoi improvvisare anche se vuoi. Mentre ci sono altre svariate segnalazioni con la colla, con l'attac, e la possibilità di infilare la colla nella serratura e metterci dentro gli stuzzicadenti. Questi sono criminali, Ariel. Mattia, io te l'ho detto, guarda, di roba un po' più tranquilla non c'è. Però l'attac ce lo dovrei anche avere a casa. Esatto. Oppure silicone, nella porta di casa sua, oppure gli puoi riempire la casa di bicchieri di caffè bollente o di vernice. Questo è più difficile, più complicato, poi dovresti anche avere accesso alla casa. Esatto, che non ho purtroppo. Guarda, sono tutti così, quindi io... Ma guarda, qualche idea buona veramente me l'avete data. No, ci sono altri filoni di gente che voleva controbattere con la musica, quindi propongono stereo con dentro delle pile a palla tutta la notte, stanotte, insomma una battaglia di suoni, quindi se lei fa musica house tu gli pompi rock and roll, però insomma è così, Mattia. Fantastici. Abbiamo i radioascoltatori che ci meritiamo d'altra parte, certo, è roba così. Vedi, tu sappi che se fai una roba di sto tipo Cioè, poi corri all'aeroporto subito, eh? Sì, sì, sì, sì, proprio con le valigie in mano direttamente a la... Ma questa settimana aveva fatto ancora feste? Ma guarda, venerdì notte, quando sono tornato al piano di sopra dalla sua amica, c'era un festino un po' commerciale, capito? Fortuna che sono tornato a casa un po' tardi, quindi mi sono arrivato Mattia, proprio alla fine. Perdonami, mi viene un'ultima domanda. Ma non è che tu mi rosichi un po' perché non ti invitano a quei party lì? No, ma mi hanno anche invitato, okay. Capito? Ok. Mi hanno anche invitato, solamente che poi io non gliela faccio. Mattia, scopriremo cosa combini. Intanto, certo. Ritorna col tuo cervellone in Italia, che abbiamo grande. Bisogno dei cervelli. Mai visto? Fane bulle rock and roll, il contatto con i cervelli che scappano all'estero. Siamo sul pezzo, Mattia. Grazie mille, buon ritorno allora, torni domani. Grazie Ariel, e ti assicuro per questa volta la nicchia perderà. Loro dici? O noi? Loro la perdo. Nicchia loro. Hai ragione Mattia, tu sei bravo. A presto. Ciao Ariel, grazie, ciao a tutti. Cioè, sono talmente rincoglionito che non capisco neanche la battuta che fa. Ma sono scemo, 8 e 17 minuti primi. È dura la vita. È un po' dura, sì. Rolling Stones, Miss You. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll. Thank you. Bonham, Ringo Starr, Steve Copeland. Beh, loro sono stati maestri della batteria. Amici, fidatevi, guardiamo in faccia la realtà. Non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se vi ostinerete a voler suonare la batteria con le vostre braccia e con le vostre gambe. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare batteristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335 100 7777, con la scritta rock con la bocca. Sì, non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Fuori, sei un vero rocker? Scoprilo rispondendo al test attitudinale di pane, burro e rock and roll, che oggi tratta una materia scabrosa. Eh sì, groupies. Sesso. Ah, bene. Diciamo la verità, S-E-S-S-O, sesso. Parliamo nello specifico della bellissima Pamela Desbar, una delle più celebri groupie degli anni d'oro del rock and roll. Se la ricorda? Naturalmente, l'ho conosciuta di persona. È passata in Italia, a Bologna qualche non volta. So se posso dirlo perché sono Guardi, un gentiluomo. Sicuramente è passata in Italia qualche giorno fa, perché è venuta a presentare il suo nuovo libro intitolato Let's Spend the Night Together, citando i Rolling Stone. Da una famosa canzone. E facendo capire anche il clou del libro, insomma. Sì. Passiamo la notte insieme. Certo. Edito da Castelvecchi, a chi dovesse interessare. In questo libro torna a raccontare il retroscena delle rockstar che ha avuto avuto il piacere di accompagnare durante le tournée e a volte anche sotto le lenzuola. Come aveva già iniziato, peraltro, lo ricordo bellissimo, eh? Sì. Infatti ebbe il piacere di leggerlo nel suo primo libro, intitolato in lingua italiana Sto con la band. Il succo era sempre quello, esatto. Anche qui direi che ci siamo. Grazie ai suoi racconti scopriamo che Jim Morrison fu amante divertente, oppure che Mick Jagger dei Rolling Stone era geniale come Leonardo da Vinci. E scopriamo anche come era Jimmy Page, il chitarrista dei Led Zeppelin. Voi là fuori lo sapete come amante, com'era Jimmy Page? Ipotesi A: Jimmy Page era un romanticone. Oppure ipotesi B: Jimmy Page era un amante irrefrenabile. Oppure ipotesi C: Jimmy Page era veloce come i suoi assori. Se qualcuno là fuori è mai stato a letto con Jimmy Page, sicuramente lo sa, altrimenti ve lo diciamo noi tra poco, giusto? Naturalmente, la soluzione a fra poco, vi diciamo l'esatta risposta poco dopo.